Viva Voce con Alessandro Milan. Io e la Rosa ci amiamo come il primo giorno, quel giorno che ci siamo sposati, che ci siamo uniti in matrimonio. Allora, come oggi, io per mia moglie farei qualsiasi cosa, come lei lo farebbe per me. Forse l'avete riconosciuta, è la voce di Olindo Romano, che parla della sua Rosa, avete sentito? Olindo e Rosa, che dice si amano come al primo giorno, che farebbero qualsiasi cosa l'uno per l'altro. Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati in primo grado all'ergastolo a 3 anni di isolamento diurno per la strage di Erba, 11 dicembre di 2 anni fa. 4 omicidi efferati, Raffaella Castagna, il figlio Youssef di 2 anni, la madre di Raffaella, la vicina di casa Valeria Cherubini e un tentato omicidio, quello di Mario Frigerio. Olindo e Rosa che un anno fa dicevano condannateci pure, ma fateci rimanere uniti, magari addirittura nella stessa cella, eventualmente a scontare la pena. Rosa e Olindo che invece sono stati divisi, lei nel carcere di Vercelli, lui in quello di Piacenza. Decisione giusta per le vittime, c'è chi ha detto così adesso capiranno cosa vuol dire perdere una persona cara, cominceranno così a scontare la pena, che vuol dire anche capire lo sbaglio che hanno fatto. Olindo e Rosa separati nonostante il parere degli psicologi che li sentivano in carcere, nonostante il parere contrario del provveditore delle carceri della Lombardia, Luigi Pagano, che in una lettera al ministero aveva consigliato di non dividerlo. E ancora Olindo e Rosa, il cui destino irrimediabilmente conquista le prime pagine dei giornali. Anche oggi un'intera pagina su Libero, anche oggi un'intera pagina sul Giorno. Il titolo, Olindo e Rosa lontani ma con un solo sogno, passare il Natale insieme. Perché anche questa attrazione mediatica nei confronti di questi delitti? Rosa e Olindo che si lamentano ancora della separazione, ma a Piacenza, almeno a leggere sempre Libero 2 giorni fa, i detenuti hanno scritto un documento in cui c'è scritto prima che Olindo arrivasse era già tanto se per i corridoi vedevi passare la tonaca del cappellano, adesso che l'assassino di Erba è qui tutti fanno la fila per incontrarlo, medici, psicologi, psichiatri, educatori, agenti, direttori, provveditori, proprio tutti, sembra di stare in un'altra galera. Qua dentro siamo tutti uguali, o forse esistono detenuti di serie A e detenuti di serie B, magari a seconda della risonanza mediatica del crimine commesso. Ne vogliamo parlare oggi, voglio salutare Enzo Pacia che è l'avvocato di coniugi Olindo e Rosa Romano. Buongiorno avvocato. Buongiorno a lei. Così come saluto il professor Vittorio Grevi che insegna procedura penale a Pavia, giurisprudenza. Buongiorno professor Grevi. Buongiorno a lei. E l'onorevole Roberto Rosso del Popolo della Libertà, onorevole che è andato in carcere qualche giorno fa a Vercelli dove c'è Rosa Bazzi, ha incontrato le detenute tra cui Rosa Bazzi appunto. Buongiorno onorevole, benvenuto. Buongiorno a voi. Alle 9:09, 800 24 00 24 per intervenire in diretta, gli sms al 349 238 6666. Il destino di Rosa Bazzi e Olindo Romano, condannati in primo grado per la strage di Erba. Per parlarne sentiamo ancora Olindo. Noi non siamo quelli che ci hanno descritto, siamo persone, esseri umani. Quella sera, quella tragica sera, ha cambiato la vita di tante persone, ma anche la nostra. Ribadisco la nostra innocenza e vorrei esprimere io e Rosa il nostro più sincero dispiacere per le persone che sono morte, che ci hanno lasciato quella sera. Per favore. Per i loro familiari e per tutti quelli che gli volevano e gli vogliono ancora bene. Per favore. Noi non siamo mostri e le urla, assassini, vergogna e anche bastardo. Era l'ultima udienza, sostanzialmente le ultime dichiarazioni di Olindo Romano prima della condanna in primo grado. Onorevole Roberto Rosso, come detto lei è stato nel carcere di Vercelli, ha incontrato tra l'altro le detenute di tutto il carcere e ha incontrato anche Rosa Bazzi. È una prerogativa ovviamente dei parlamentari poter entrare nelle carceri italiane. Le chiedo su quello che ci può dire, insomma, come l'ha trovata e perché ha incontrato Rosa Bazzi insieme alle altre detenute. Ma a me capita spesso, prima di Natale, mi sembra una cosa ragionevole e normale andare a cercare di fare un giro nelle carceri di Vercelli, che è la mia città. L'ho fatto anche quest'anno, e quest'anno c'era tra le detenute questa signora Rosa Bazzi, con la quale poi ho avuto modo di fermarmi, perché effettivamente gode di un trattamento di sostanziale distinzione, nel senso che il direttore del carcere e gli ispettori di polizia carceraria hanno preoccupazione che la signora possa fare gesti inconsulti, conseguentemente la tengono di particolare attenzione, la sorvegliano a vista, hanno fatto in modo di inserirla con un'altra detenuta in modo da non soffrire dell'isolamento. Avevamo paura che in un primo tempo potesse soffrire dello shock del trasferimento da Como, dove viveva, nella possibilità del contatto col marito, a quello di Vercelli. Devo dire che l'ho trovata bene, una signora mingherlina, però abbastanza vispa, devo dire. Una signora che lamentava appunto la separazione dal marito, a cui si sente molto legata, ma che in quella giornata in cui l'ho visitata ha avuto anche la fortuna non solo di incontrare l'avvocato Bordeaux, che mi sembra essere un assistente dell'avvocato CIA, ma anche di ricevere la prima telefonata al marito. Era la prima volta da due giorni, da quando si erano separati, che il marito poteva telefonare dal carcere di Piacenza. Era praticamente lieto di questa evenienza, che le confermava il fatto che il direttore del carcere, l'istituzione di polizia carceraria erano particolarmente affidabili di Vercelli, li ringraziava. Io poi ho avuto modo di sentire anche un pezzo di telefonata, perché parlava a voce particolarmente alta, quindi ringraziava, parlava al marito, diceva: guarda, tu lo sai che io non mi fido di nessuno, però di queste persone dobbiamo veramente fidarci, perché sono affidabili, mi ricordo che diceva, hanno le palle. Quindi voglio dire, mi sembrava una persona molto compossui, che spera dal suo punto di vista di affermare la propria eventuale innocenza nel processo appello, ha molta confidenza, molta fiducia nei suoi legali, assolutamente lieta. Sì. E diceva, ricordo, che sosteneva il fatto che non ha in questo momento la possibilità di difendersi in proprio, nel senso che i suoi beni, che non sono poi molti, credo, sono stati bloccati, e quindi deve tutto lavorare pacire sui legali, perché con uno staff molto forte anche di investigatori riescono a spesarsi in proprio, a stare nelle spese direttamente. Sì, ma a proposito di questo, che poi sarà appunto quello che sarà la difesa in appello, avvocato Pacia, io vorrei, poi andrò dal professor Grevi, che insomma codice alla mano ci può spiegare perché siamo in questa situazione. Avvocato Pacia, però come puoi immaginare, le faccio una domanda dura, come sono duri i commenti anche degli ascoltatori, si sa in questi casi, no? Si parteggia come è giusto, sempre per le vittime, anche se lei giustamente dice dimostrerò l'innocenza, insomma, ma sarà un'impresa davvero difficile dal punto di vista processuale. Perché dovremmo preoccuparci del fatto e perché i giornali si preoccupano quotidianamente del fatto che Rosa Bazzi e Olindo Romano sono stati separati? Io penso che Rosa e Olindo, condannati all'ergastolo con l'isolamento in un processo indiziario per un reato per il quale si sono protestate innocenti adducendo anche forti elementi di prova a loro favore, io penso che questa ulteriore afflizione della separazione in un'unione che ha degli aspetti di amore, direi così intenso da diventare patologico, sia un'afflizione veramente contraria a qualsiasi principio di umanità. Questa è la... E quindi non riesco a capire, ecco, questa l'opinione pubblica che non si arresta e non si ferma mai di fronte all'interrogativo di base, ma sono poi veramente colpevoli? Vogliamo aspettare le sentenze definitive? Oppure in Italia oramai è di moda il principio che le condanne si proclamano prima attraverso radio e televisioni, come è avvenuto per questi due creature che sono state condannate all'ergastolo prima ancora di cominciare il processo. Questa è la verità. Vabbè, questa, diciamo, sono stati presentati come mostri, e mostri devono essere, Bisognerà poi vedere se le prove sostengono questa ipotesi accusatoria. Lei ha fatto addirittura, credo, un ricorso, vuole fare ricorso per la riunificazione, ma cosa vuol dire il fatto di Olindo a dire condannateci ma fateci stare insieme? Lei vuole dire cosa ci legge? Certo, guardi, questo è uno degli aspetti patologici appunto della loro personalità, quindi anche del loro amore. Per loro la vita in unione è una vita simbiotica, c'è stata una trasfusione di personalità dell'uno nell'altro, vivono all'unisono, vivono inseparabilmente uniti e per loro la più grande tragedia è la separazione. Del resto proprio sulla separazione si erano impostate anche le confessioni, insomma, perché gli era stato detto loro che sarebbero stati separati per sempre. Questo è il problema di queste due persone, che sono persone che sono al di fuori della normalità. Se non si capisce questo, non si può capire chi sono Rosa e Olindo e anche perché hanno confessato. Professor Grevi, un giudice, comunque un legislatore, può tenere conto di questo tipo di unione simbiotica, l'ha definita l'avvocato Pacia, cioè addirittura nel codice è prevista quella che lei fantasiosamente ha definito, credo, in un articolo del Corriere, tra virgolette, la cella matrimoniale? Ma io ho usato questa frase perché effettivamente dalle dichiarazioni dei due imputati traspariva questo desiderio comunque di trascorrere l'eventuale detenzione anche successiva alla condanna insieme, ma certo questa è una cosa che sta al di fuori di qualunque previsione normativa, cioè non è assolutamente previsto, non fosse altro perché le carceri sono divise per sesso e quindi non esistono delle carceri promiscue. Però il concetto che due detenuti, soprattutto quando sono condannati e quando quindi comincia nei loro confronti anche il cosiddetto trattamento rieducativo, risocializzante, che vale anche per gli ergastolani, debbano essere favoriti nei contatti reciproci, nelle cosiddette visite, soprattutto quando, come mi sembra sia la situazione di questi due signori, non hanno altre persone al mondo e quindi l'unico partner del colloquio è il coniuge, questo è un fatto, direi, da sostenere nell'ambito della disciplina del trattamento penitenziario e quindi indubbiamente la scelta dell'amministrazione penitenziaria, che immagino sia una scelta, anzi senza dubbio una scelta soltanto ispirata da ragioni organizzative, certo non può essere ispirata dal desiderio di aumentare l'afflittività della pena, perché questo sarebbe radicalmente sbagliato, ma ispirata da ragioni organizzative, insomma è difficilmente comprensibile da questo punto di vista. Da questo punto di vista sì, non è una pena ulteriore, non è una punizione. Non è una pena aggiuntiva. Questo non è previsto. La pena vuol dire anche l'espiazione della pena, vuol dire anche capire quello che si è fatto e cercare di elaborarlo, e perché la pena tende al recupero. In questo, secondo lei, come hanno detto le vittime, separarli vuol dire proprio nella loro unione simbiotica far capire quello che significa perdere gli affetti, perdere una persona cara, perdere tutto o quasi tutto, e quindi anche come è successo alle vittime. Secondo lei è una spiegazione per dire, è un modo per espiare la pena, per capire quello che hanno commesso? Ma dunque, volevo premettere che loro sono stati condannati in primo grado, sì, ovviamente, certo, al termine di un processo che, mi spiace di sentire dall'avvocato, è tutto salvo che un processo indiziario. C'è la testimonianza del sopravvissuto. La testimonianza di una delle vittime, e ci sono anche delle confessioni, e poi potranno essere contestate, ma insomma qui ci sono delle prove vere, non di tipo indiziario, delle prove rappresentative, come diciamo noi. Ma detto questo, e una volta che si pervenga alla sentenza di condanna, e poi, come dire, la dimensione, la portata della pena è decisa dal codice, non è calibrata di volta in volta dal giudice, magari per venire incontro alle aspirazioni delle vittime di veder aumentato il tasso di afflittività della pena decisa stabilita dal codice. Il codice commina per questi casi l'ergastolo, quando una persona è condannata per diversi reati, per tutti i quali dovrebbe essere applicato l'ergastolo, si aumenta, un tempo c'era la pena di morte per questi casi, ma si aumenta, come dire, l'asprezza dell'ergastolo, lo prevede il codice, con l'isolamento diurno, cioè l'esclusione dall'attività in comune nelle carceri fino a 3 anni, qui si è andati al massimo perché è stato dato l'isolamento diurno di 3 anni, e dopodiché però basta, non è che si debba ulteriormente articolare le modalità esecutive della pena nei termini ancora il più afflittivo possibile. E certamente l'idea di separare questi due condannati per farli soffrire di più è un'idea estranea alla logica penitenziaria. Tra l'altro, professore, lei ha accennato a questo aspetto molto interessante dell'isolamento diurno, perché sono stati appunto condannati all'ergastolo con l'isolamento diurno per 3 anni. Quando lei ha fatto cenno alla pena di morte, alla pena capitale, giustamente un ascoltatore, il primo che ci ha mandato un sms, ha detto devono ringraziare che non ci sia la pena di morte, perché c'è una spiegazione proprio codice alla mano, come lei ci ha anticipato. Un tempo c'era la pena capitale per alcuni delitti tipo questi, ora che finalmente, dico io, viva Dio, non c'è più, automaticamente però viene applicato come inasprimento della pena l'isolamento diurno. Questa è la spiegazione tecnica dell'isolamento. Sì, fin quando c'era la pena di morte, per reati di questo tipo, soprattutto concorso di reati di questo tipo, tutti puniti con l'ergastolo, si scattava la pena capitale. Venuta meno la pena capitale, per dare un segno all'interno del sistema penale, che ovviamente una cosa è essere condannati per un reato punito con l'ergastolo, una cosa è condannati, semplifico nel nostro caso, per 4 reati puniti con l'ergastolo, il come dire quid pluris di inasprimento della pena è dato da questa, insomma, aggiunta dell'isolamento diurno fino a 3 anni. 800 24 00 24, voglio andare dal primo ascoltatore e poi torno dall'avvocato Pacia, l'onorevole Rosso. Alvise da Venezia, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per l'opportunità. Dunque, io penso che, come si insegna, che la pena abbia questa duplice valenza, appunto come state dicendo anche voi lì in trasmissione, cioè sia punitiva che rieducativa da un lato. E credo che dal punto di vista del primo aspetto, cioè della punizione, effettivamente, come loro stessi hanno detto, è proprio la loro divisione quello che più potrebbe avere un significato punitivo nei loro confronti, indipendentemente dalla coscienza che possono avere o no di quello che è stato fatto, di quello che hanno fatto, se anche in secondo grado, eventualmente terzo, questo dovesse venire confermato. Per quanto riguarda la parte rieducativa, potrebbe essere lo stesso evento, la separazione dei due potrebbe essere effettivamente quell'occasione per ripensare e forse metabolizzare e capire dentro di loro, insomma, che effettivamente il distacco dalle persone care, da quello che hanno fatto, insomma, quindi dall'aver ucciso delle persone, possa rieducarli in qualche modo, magari non con una visione permanente della cosa, magari con dei controlli periodici poter vedere se questo è effettivamente avvenuto, e quindi eventualmente a rieducazione avvenuta poter agevolare per non incorrere, sì, magari in situazioni peggiori, magari con gesti appunto inconsulti, la riunificazione dei due, insomma. Va bene, grazie Alvise. Io vorrei tornare dall'onorevole Pacia, scusi, dall'avvocato Pacia. Avvocato, perché invece non dire che Olindo e Rosa sono detenuti di serie A di fronte alla massa di detenuti di serie B che nel silenzio non hanno alcuna voce? Senta, ascolti, lei mi dà 3 minuti? Come no? Perché sono state dette parecchie imprecisioni. Allora, innanzitutto il trasferimento di Rosa e di Olindo non solo è un atto contrario a principi elementari di umanità, ma è anche altamente lesivo, come sempre avvenuto in questo processo regolarmente, dei diritti della difesa. E mi spiego meglio. C'è tanto di convenzione europea, e lì c'è un deputato che rappresenta quindi il nostro paese, c'è tanto di convenzione europea che stabilisce tassativamente che la difesa deve essere facilitata, uso i termini letterari. Allora, io vorrei che qualcuno mi spiegasse, dei burocrati che hanno stabilito il trasferimento dei due, come posso io, che sono l'unico difensore contemporaneamente di Olindo e di Rosa, poter conferire con gli stessi andando prima in un carcere di Vercelli, poi in un carcere di Piacenza, oltretutto aggiungo la mia età, quando io ho bisogno per una evidente ragione che tutti possono capire, anche l'ultimo ascoltatore che telefona e che chiede, come ha fatto precedentemente alla televisione, la pena di morte, e io vorrei che qualcuno mi spiegasse come posso sostenere difendere tecnicamente le investigazioni, la difesa, sì, di entrambi, non potendo parlare con entrambi. Va bene, però poi risponda però a questa domanda, l'accusa di essere detenuti di cui parlano tutti, insomma. Mi lasci togliere qualche sassolino, sì. Parlava prima il collega del riconoscimento, bisogna conoscere il processo. Il Frigerio, di fronte a ben 10 persone in due occasioni diverse, compreso il suo avvocato e compreso un PM, non ha affatto riconosciuto Lindo, ha detto che non conosceva la persona. Però che l'ha riconosciuto in aula, ma non dobbiamo rifare il processo. L'ha riconosciuto in aula, e allora il riconoscimento è proprio una delle fonti di errori giudiziario che tutti gli avvocati conoscono e sanno. Avvocato, non gli però si può attribuire la patente di verità assoluta. Come lei ben sa, non è la trasmissione per rifare il processo, lasciamo alle aule. Cose. No, vabbè, ma è stato riconosciuto in aula, ma comunque, insomma. Venga la mia domanda, voglio dire, perché qualcuno dice che sono detenuti privilegiati, altro che ma diciamo, quale privilegio? Ma beh, quale rispetto privilegio a tutti gli altri detenuti che non hanno voce, per esempio. Ma io vorrei sapere quale privilegio hanno avuto. Non hanno avuto nessuna voce, hanno avuto sempre la voce d'opinione pubblica contro, che li ha definiti mostri. Quali privilegi hanno avuto? Erano qui a fare un percorso terapeutico, psicologico, li hanno separati, li hanno portati via. Ripeto, oltretutto mettendo me nelle condizioni di non poter difendere come dovrei difendere, è un'afflizione, è una vendetta dello Stato perfettamente inutile. Ma chi nello Stato avrebbe interesse, mi scusi, a vendicare, perché accanirsi contro? Cioè, voglio dire, lei vede uno Stato. Ecco perché è emersa la ragione in questa trasmissione. Quando si dice bisogna separarli perché così almeno pensano a quello che hanno fatto. Nessuno si domanda se è vero che hanno fatto qualche cosa. È l'opinione di molte persone, non so, è che noi rispettiamo, certo, l'opinione di tutti. Così. Presentati come mostri, ripeto, molte volte sulle cronache, alla televisione, come mostri prima del processo, fatalmente mostri sono e mostri rimarranno. Allora, mi lasci dare un'altra ascoltatrice, Annarita dall'Aquila, buongiorno. Buongiorno, io credo che l'avvocato faccia bene il suo mestiere, però io dico che è vero che ci sono detenuti di serie A e detenuti di serie B. Il fatto è che in Italia siamo un pochettino stufi di non vedere trionfare la giustizia, ovvero è sicuro che loro sono colpevoli, se no né la polizia né i giudici hanno fatto bene il loro lavoro. E credo che sia arrivato il momento in Italia che chi uccide, chi stupra, sia condannato e passi il suo tempo in carcere. Guardi, fino però, alla fine della pena. Anna Rita, poi io non voglio, ripeto, l'avvocato Pacciassi da difendere e difendere i suoi, però poi vediamo, voglio dire, anche secondo me ci sono state delle prove abbastanza di riconoscimento. Dopodiché però sono colpevoli, visto che siamo garantisti sempre fino in fondo, quando ci sarà il terzo grado di giudizio, insomma, quando la sentenza passerà in giudicato. Se no, avanti tutta con tutti che dicono buttiamo le chiavi, il mostro, eccetera. Su questo sono d'accordo con l'avvocato Pacia. Stiamo parlando, se volete, della strage di Erba, se volete, delle due figure di Rosa e Olindo, condannati in primo grado all'ergastolo con isolamento diurno, ora separati anche in due carceri diverse si trovano. C'è l'avvocato Enzo Pacia, il professor Vittorio Grevi. Voglio salutare il professor Luigi Cancrini, che ci ha raggiunto. Professore, buongiorno. Buongiorno. Psichiatra, psicoterapeuta, tiene anche una rubrica sull'Unità, dove editorialista risponde sempre con, io le leggo sempre con molta attenzione, alle lettere dei lettori. Professor Cancrini, lei di recente tra l'altro ha proprio risposto a una lettera di un lettore che gli ha scritto proprio della vicenda di Erba. Le chiedo, visto che lei si è occupato molto spesso di questi delitti efferati, di quello che è anche l'attenzione, l'attrazione, forse la morbosità nei confronti di questo tipo di delitti, perché siamo attratti tutti, e quando io dico e mi criticano i giornali vengono letti dalle persone che vogliono leggere questo, da questi delitti? Ma guardi, io penso che questi delitti esprimono sempre, come dire, qualcosa che accade nel profondo dell'anima delle persone. La normalità in fondo non è il non desiderare di fare cose folli, ma è quella di controllare, no? Le cose folli che ci vengono da dentro. La normalità è un io, diceva Freud, che filtra le pulsioni, le idee, ma la pazzia ce l'abbiamo dentro tutti. Allora, questi personaggi che la pazzia la lasciano venire fuori per loro fragilità, per circostanze sfortunate della loro vita o quel che sia, sono affascinanti perché ci risuonano dentro e noi ci rispecchiamo in loro in qualche modo. Abbiamo anche la possibilità, guardandoli, di dire: loro sono altri, non sono io, io queste cose non le faccio. Quindi, prendendo distanza, ci solleviamo, no? Rispetto a quelle che Freud chiamava le pressioni dell'inconscio. Ci danno un conforto su quello che noi non siamo e speriamo di non essere mai, sostanzialmente. Perfetto, perfetto, proprio questo. Sono in qualche modo un aiuto. E allo stesso tempo ci permettono di pescare nella loro morbosità, diciamo, no? Che poi in qualche modo, anche se appunto più lontana, più distante, più controllata, è anche la nostra. Senta, la colpisce e l'ha colpita, se ha seguito magari attraverso appunto l'attenzione mediatica, Olindo Romano, noi l'abbiamo fatto sentire in apertura, che dice sostanzialmente: noi ci amiamo come il primo giorno, che in una richiesta un anno fa disse: condannateci pure ma lasciateci insieme. L'avvocato Pacia, che li difende, parla di un'unione morbosa. Lei che spiegazione si darebbe? Guardi, io penso che le persone che hanno commesso dei delitti di questo genere hanno un bisogno, come dire, superficiale, immediato, fortissimo, che è quello di non pensare a quello che è accaduto, di tenerlo lontano, e per far questo si attaccano a qualcosa che sia, come dire, importante emotivamente per loro. Io credo che la solitudine, separandoli, li costringe a pensare. Li costringe dolorosamente a pensare, perché diventa difficile per loro trovare modi nel quotidiano di allontanarsi dal pensiero di ciò che hanno fatto. D'altra parte, io credo che sia necessario per due motivi essenziali. Uno, perché il pensare è buono e perché il cambiamento all'interno della persona avviene soltanto nel momento in cui dolorosamente riflette su ciò che è accaduto. Ma poi anche perché in una situazione come questa a due, quello che noi potremo verificare nel tempo è il fatto che i due abbiano, dal punto di vista emozionale, dal punto di vista dell'organizzazione interna di personalità, delle risorse diverse. Nella vecchia psichiatria si parlava di folie à deux, di follia a due, in cui, rinforzandosi reciprocamente, due persone arrivavano agli stessi convincimenti, alle stesse posizioni e così via. Separandoli si vedeva qual era dei due, come dire, il motore della follia. Quindi, no? secondo lei questa separazione può essere funzionale a un recupero, quindi a un'espiazione della pena che sia anche recupero? A un'espiazione per tutte e due, ed eventualmente ad una differenziazione fra due personalità probabilmente non ugualmente forti in questa situazione. Il professor Grevi, lei nel suo commento di recente sul Corriere della Sera ha proprio scritto che e l'ha sottolineato questo principio che è bene sempre ribadire, e lo voglio ribadire anche oggi, che pure nei confronti dei peggiori delinquenti sempre siamo al primo grado, ma voglio dire in astratto il concetto. Esiste nella legge, nella nostra legge, nel garantismo, lo spiraglio sempre aperto alla possibilità di un riscatto morale, di un recupero. Perché questo concetto, secondo lei, davvero fatica a insinuarsi nelle convinzioni degli ascoltatori? Guardi, se lei vedesse gli sms, insomma, o che le mail che ci arrivano, può immaginarne il tenore, no? Dal buttare le chiavi, quei soliti slogan, alla pena di morte, alle solite cose che lei sa. Perché fatica a insinuarsi? Perché forse non c'è una certezza della pena, come diceva la nostra ascoltatrice dell'Aquila? Ma perché l'animo della gente semplice, comune, insomma, non è ancora stata introiettata l'idea che appunto la pena non è soltanto castigo. La pena certamente è castigo, la pena certamente è, come diciamo noi, retribuzione per il male commesso, ma non è soltanto questo. Se fosse soltanto questo, l'ergastolo per esempio sarebbe una pena incostituzionale, perché contravverrebbe all'idea scritta in Costituzione che le pene devono tendere anche alla rieducazione del condannato. E quindi l'idea di fondo che ispira il nostro sistema penale è che qualunque condannato, anche per il peggiore delitto, debba avere delle chance di riabilitazione, di risocializzazione. Anche l'ergastolano in prospettiva può sempre sperare a un certo punto di uscire. Dopo 26 anni di pena espiata, per esempio, l'ergastolano può uscire se il giudice competente riterrà che abbia raggiunto una situazione di ravvedimento. E anche magari qualche anno prima, se, tenendo conto degli abbuoni di pena, di cui anche l'ergastolano 90 giorni all'anno può usufruire. Io però vorrei aggiungere una cosa dei discorsi che sono stati fatti fino adesso. Anche questa idea del professor Cancrini che l'eventuale limitazione nei colloqui, fatale conseguenza del fatto che i due siano stati dislocati in carceri diverse, può aiutarli a pensare e a riflettere su quello che hanno commesso. Ma insomma, il sistema penale prevede già l'isolamento diurno a questo proposito. Il limitare i colloqui da parte dell'amministrazione penitenziaria non deve inserirsi in una logica di ulteriore inasprimento della pena. E poi teniamo presente, ecco, mi pare, salvo l'avvocato Pacia, che tutti siano orientati in altra prospettiva, teniamo presenti che questi due condannati, per quanto ci siano prove ampie della loro colpevolezza, non sono ancora condannati in via definitiva. Quindi loro tecnicamente sono ancora imputati in attesa di giudizio di secondo e poi di terzo grado. Semmai un discorso relativo alla valenza delle modalità di esecuzione della pena può essere fatto solo dopo che siano diventati definitivi. Prima, mi sembra giustamente, diceva l'avvocato Pacia, bisogna evitare che la situazione penitenziaria sia d'ostacolo anche all'esercizio della difesa. Allora, ci sono tanti ascoltatori, vado da Enrico da Firenze, poi torno dal professor Cancrini e dall'avvocato Pacia. Enrico, buongiorno. Sì, buongiorno. Chiedo a tutti di essere brevi, se possibile. Brevissimo, volevo dire, io sono contro tutte queste argomentazioni che ne fanno un caso specifico da trattare specificamente. Cioè, questi sono due persone che sono in galera e sottoposte a misura cautelare, tanto per cominciare. Cioè, sono tutti coloro che si trovano in galera, sono privati degli affetti, sempre. Poi esistono dei mezzi giuridici per poter intervenire, chiedono gli arresti domiciliari, chiedono i permessi premio un domani quando saranno in esecuzione, chiedono perizie per dire che sono malati di mente, in tal caso avrebbero altri percorsi. Ma io sono contro a dire, devono stare insieme. Nel nostro ordinamento non esiste il concetto di cella matrimoniale. No, no, ma infatti questo, la cella matrimoniale, diciamo, è stata esclusa. No, questo l'ho capito, però è stata esclusa, diciamo. Faccio l'avvocato di professione e posso garantire che tutti coloro che vanno purtroppo in prigione per motivi giuridici si trovano separati dal contesto affettivo, e quindi io non capisco perché in questo caso, così come in altri casi in passato, si deve trattare queste persone come se fossero casi privilegiati. Sì, insomma, lei dice, ha visto anche nell'attenzione mediatica, insomma, un parlare di loro per non parlare di altri. Su questo, professor Cancrini, che poi ci deve lasciare l'avvocato Pacia. Professore, vuole replicare? Insomma, Grevi ci ha detto sostanzialmente che già c'è l'isolamento diurno, che è la pena inasprita che è stata applicata agli ergastoli. Lì servirebbe già a pensare, cioè lì basterebbe per pensare quell'isolamento diurno. Perché anche separarle? Su questo lui è contrario. Guardi, io francamente, diciamo, quello che è stato detto, che sia un diritto della difesa il fatto che le persone si parlano fra di loro frequentemente, eccetera, lo trovo discutibile. A me pare che generalmente, diciamo, una strategia dei magistrati che indagano su situazioni in cui ci sono più imputati che hanno fatto delle cose, sono accusati di aver fatto. No, il diritto della difesa è che l'avvocato conferisca con loro, essendo l'avvocato Pacia di entrambi, deve spostarsi da un carcere all'altro, ma questa forse. Ho capito, ma il problema è che siano loro a incontrarsi molto preparando insieme delle linee di difesa. Mi sembra che questo sia in genere una cosa che viene evitato, insomma, no? Mi pare, nelle situazioni comuni. Ecco, mi pare veramente l'ascoltatore ha ragione, cioè io penso che ci sono delle durezze nel sistema giudiziario che tuttavia sono utili rispetto a quella anche che è l'idea di immaginare un riscatto della persona. Io credo che una persona che viene accusata di avere ucciso in questo modo, io penso che a un certo punto non è che può trovarsi di fronte a persone che si inteneriscono perché prova degli affetti per il suo marito o moglie. Voglio dire, sì, una cosa sua, scriverà, che ne so, ma non mi viene da vedere questo fatto che, tra virgolette, delle persone rappresentate, tra virgolette, come dei mostri, siccome hanno degli affetti e si vogliono bene, debbano avere un trattamento diverso da quello di chi è accusato di delitti, magari simili, però meno vistosi, che colpiscono di meno la fantasia della gente. Da questo punto di vista, avvocato Pacia, io le rifaccio la domanda, siccome ci ha raggiunto anche Riccardo Arena, che intanto voglio salutare, ben ritrovato Arena. Riccardo Arena è conduttore, ideatore, curatore del programma Radio Carcere, che tra l'altro va in onda alle 21 questa sera. Sì, Arena, alle 21 su Radio Radicale. Radio Radicale, domani poi sul Riformista, la forma cartacea, insomma. Del mercoledì, sì. Uno che di carcere se ne intende, delle voci dei carcerati, e tra poco insomma ne parleremo. Però avvocato Pacia, le riformulo la domanda, così come si direbbe in tribunale, molto secca. No, lei ha detto già di no, ma come, altro che privilegi, sono dei mostri, e però sono stati considerati dei mostri, altro che privilegi, solo critiche. Però insomma l'avrà letta anche lei sui giornali, la rivolta dei carcerati, comunque degli altri che dicono tutti a fare la fila, tutti a chiedere di loro, tutti a venire qui, e noi chi siamo, tutti gli altri 50.000 rotti carcerati che non hanno voce. Non Ma c'è... hanno ragione, anche Olindo e Rosa farebbero meno di questa pubblicità che è gravata su di loro da tempo, hanno perfettamente ragione. Guardi, io le devo dire, devo aggiungere. Ma loro ce l'hanno con le attenzioni, sì, però ce l'hanno a dire tutti a parlare di loro e nessuno a parlare di noi. Che colpa ne hanno loro due? Ne parlano gli altri. Guardi che comunque i permessi di colloquio non solo necessari ma dovuti. I Olindo e Rosa non hanno alcun familiare, hanno solo, vivono l'uno per l'altro, ci sono solo loro due, e nessuno può impedire a loro, perlomeno per regolamento carcerario, di avere dei colloqui. Mi dica come fanno ad avere dei colloqui se uno sta da una parte, l'altro dall'altra, e ogni volta, oltretutto, lo Stato si deve sobbarcare spese enormi per trasferirli col cellulare per potersi parlare quell'ora al giorno, prima cosa. Seconda cosa che mi pare che ci sia da dire è che non è vero quanto mi consenta, da come ho capito, quanto sì. Dice lo psichiatra, perché non è con un trauma psichico di questa portata che si può rieducare una persona, ammesso che debba essere rieducata, ammesso che sia colpevole, tutto ciò ammesso e non concesso. Sì. Perché con questa presa di posizione, questo staccarli così bruscamente, si corre il rischio, un alto rischio suicidiario, perché lo psichiatra non sa che sono in isolamento da un anno e mezzo perché temono, gli psichiatri del carcere di Como temevano il suicidio. Se avverrà un suicidio, benissimo, sapremo invece qual è la ragione a questo punto. Allora, Riccardo Arena, questa sera alle 21 non credo, o non lo so, se si parlerà in Radio Carcere anche di Olindo e Rosa. Nel senso, di Olindo e Rosa detenuti di serie A, gli altri di serie B? Faccio questa domanda. No, noi Radio Carcere ha la rubrica di informazione sul processo penale e detenzione, e quando ci occupiamo sia di processo che di carcere non difficilmente approfondiamo un caso famoso. Casomai per i processi, quando ci occupiamo di giustizia, partiamo da un caso famoso per poi approfondire un istituto processuale. Questa sera è l'antivigilia di Natale, una serata particolare in carcere, quindi questa sera Radio Carcere su Radio Radicale faremo un giro d'Italia, delle carceri italiane, attraverso la voce delle persone detenute che ci raccontano come dal carcere di Opera di Milano fino al carcere di Favignana, come si vive la notte, la sera di Natale in carcere, una sera particolare perché è una sera che dove vengono amplificate, ecco, le sofferenze, le pene in più che già di solito tutti i giorni purtroppo si patiscono le carceri italiane. Io però, leggendo i titoli dei giornali, appunto ieri Libero, la rivolta dei carcerati a Piacenza, Olindo raccomandato, questi sono titoli, e La Stampa, insomma, qualche giorno fa, Vercelli, crepa assassina, i detenuti contro Rosa. Ecco, lei che li vive dal di dentro, sono verosimili queste notizie che fuoriescono? C'è un... Un certo malumore da parte delle persone detenute del carcere di Como ultimamente, insomma, mi sono arrivate diverse lettere, ma non tanto perché ce l'hanno con loro, sì, il delitto efferato, l'aver ucciso, l'essere accusati, anzi per la precisione, di aver ucciso un bambino, è chiaro che genera nelle persone detenute una reazione, diciamo, tradizionale, ecco, di codice d'onore. Però ecco, si lamentavano a Como soprattutto perché erano costretti più per troppo tempo a rimanere in cella, proprio perché il fatto che ci fosse Olindo o Rosa nella sezione femminile creava dei disagi, ecco. Però io non darei troppo risalto a questi titoli, a queste notizie che, insomma, tra l'altro sono anche difficili da verificare. Perché i giornali parlano di Olindo e Rosa come parlano? Guardate sempre oggi, se avete voglia, Libero, le poesie di Rudy Ghedè, il libro di poesie di Fabrizio Corona, e poi invece di tutti gli altri migliaia, io ho dato un numero, non so se è quello, ma in realtà lei ci può dare il numero preciso, di tutti i detenuti nessuno ne parla. Sono circa 58.000 le persone detenute nelle carceri italiane, su una capienza regolamentare effettiva di 35.000. È perché noi abbiamo un problema della qualità dell'informazione per quanto riguarda il processo penale e il carcere. Nessun giornale, tranne il Riformista con la pagina di Radio Carcere, parla dell'imputato ignoto, dell'indagato ignoto, della vittima del reato ignoto, del detenuto ignoto, ovvero di quelle persone, di quei cittadini senza nome che entrano nel meccanismo a volte spietato e troppo spesso inefficace della giustizia e del carcere. Questo è un'anomalia della nostra informazione, un'anomalia di cui dovremo discutere di più. Denise da Como, buongiorno. Pronto, buongiorno. Dica. Beh, a proposito di anomalia dell'informazione, a me sembra che del caso di Rosa e Olindo si stia facendo un altro caso Franzoni, nel senso che forse sarebbe il caso di abbassare un po' i riflettori su questa faccenda, perché io penso che sia giusto sia per Rosa e Olindo che comunque, per quanto non siano ancora, non sono stati ancora, non c'è stata ancora una sentenza definitiva, però quello che è successo. Si può ipotizzare che siano stati loro, ma si vedrà, insomma, in appello in terzo grado. E si vedrà. Di sicuro il fatto è un fatto molto grave, che comunque ha sconvolto le coscienze, che è stato, proprio per come è avvenuto, raccapricciante. Le faccio una provocazione, che guardi, lungi da me essere la difesa corporativa, sono l'ultima persona al mondo in grado e che ha voglia di difendere oserei dire, mi stava venendo la casta dei giornalisti, ma sì, insomma, allora lo dico. Però accetto le sue critiche, e ribalto però la questione chiedendole perché, quando c'è un articolo su Rosa Olindo in questo caso, ma anche altri articoli del genere, o quando se ne parla sui siti internet, o quando su YouTube sono tra le cose più cliccate e più guardate, o sui telegiornali o in televisione, vuol dire che la gente vuole questo? Perché la gente lo vuole? Cioè, forse il problema non è quello, che la gente lo vuole, quindi i giornali ne parlano per vendere? Accetto la sua provocazione e penso che sicuramente c'è una parte di noi, una parte di ogni persona, e parlo in generale, la massa, che ha una curiosità morbosa per i fatti di sangue, soprattutto quando purtroppo noi verifichiamo che nella maggior parte dei casi avvengono proprio all'interno delle famiglie, o comunque dove c'è una prossimità. Nel caso di Olindo e Rosa, appunto, vicini di casa, conoscenti di anni, c'è questa prossimità, per cui diciamo che questi fantasmi, l'orrore è proprio vicino a noi, e questo ci incuriosisce morbosamente. Però c'è proprio un'enfasi che è come se prendesse piede, e poi diventa forse a volte incontrollabile, non so. La ringrazio Denise per aver accettato, insomma, il ribaltamento del gioco delle parti. Professor Grevi, lei crede che dal punto di vista, lei ovviamente è abituato a scrivere, a ragionare, a intervenire, codice alla mano, però voglio chiedere anche lei, visto che dal punto di vista del suo lavoro si occupa anche dei casi di cronaca nera e dell'attrazione che hanno sui media questi casi di cronaca nera, lei ha una spiegazione, se la dà oltre alla spiegazione tecnica processuale? Ma per quanto riguarda l'interessamento, come dire, divaricato dei giornali che si occupano molto dei casi clamorosi e meno invece della quotidianità delle carceri, credo che la spiegazione giusta sia quella che ha individuato lei. I giornali tutto sommato hanno il problema di vendere e quindi un po' pedissequamente seguono i gusti, che spesso sono gusti emotivamente sviluppati delle persone, purtroppo è così, purtroppo come diceva anche prima Arena, il detenuto medio, il detenuto normale non fa notizia, e mentre fanno notizia i casi clamorosi, e quindi di conseguenza questa enfasi posta sui casi clamorosi. Però è anche vero che spesso, voglio dire, volendo cogliere un aspetto positivo di questo fenomeno, è anche vero che un buon giornalismo potrebbe cogliere lo spunto, come per esempio stiamo facendo noi oggi, da un caso clamoroso per vedere le sfaccettature di un sistema, in questo caso del sistema penitenziario, e cogliere anche le lacune, le deficienze, le disfunzioni che colpiscono tante persone che non sono, pur essendo detenute, non sono nei riflettori della cronaca. Riccardo Arena, quali sono le, visto che siamo sotto Natale, le richieste che, insomma, Radio Carcere soprattutto farà conoscere questa sera da parte dei detenuti, dei 58.000 detenuti in Italia, così insomma allarghiamo, parliamo anche di quei detenuti di serie B, come qualcuno li ha definiti nei confronti di Olindo, sì, e Rosa. Mi lasci salutare il professor Grevi, intanto, no, che insomma ci sentiamo, e lo saluto veramente con gli faccio gli auguri, ecco, di buon Natale, ne approfitto. La situazione delle carceri purtroppo di questo Natale, che lo ripeto è soltanto un giorno che amplifica i disagi degli altri giorni dell'anno, non cambia niente tra un mese, però la particolarità di questo Natale in carcere sarà non soltanto la presenza di un sovraffollamento marcato nelle celle, parliamo di celle di 7, 8, 9, 10, 12 persone detenute, chiuse per 21 ore al giorno. Parliamo di carceri, la cui sono 205 le carceri italiane, la metà dovrebbe essere dismessa, come ha detto lo stesso ministro Alfano, perché sono ormai vecchie, vetuste. Pensate che alcune carceri salgono al 1200. Ecco, se questo è il panorama, un panorama poi coronato da persone malate e non curate, ecco, da persone che vivono la detenzione in città lontane dal luogo di residenza della propria famiglia, famiglia che non può andare a trovare il proprio caro perché non hanno i soldi per fare il viaggio, che ne so, da Napoli a Milano. C'è purtroppo questa realtà di povertà in Italia che crea prigioni nelle prigioni. La particolarità di questo Natale in carcere del 2008 sarà la mancanza di speranza, ed è questa la cosa peggiore che può accadere nelle carceri sovraffollate. Prima c'era la speranza dell'indulto, oggi l'indulto è stato demonizzato, si sa bene nelle carceri che non si farà un altro indulto per i prossimi 15 anni, la sofferenza, il sovraffollamento, il degrado, unito alla mancanza di speranza, caratterizza questo Natale. E vi dico che è una cosa che a me personalmente preoccupa tantissimo, soprattutto in vista dell'estate. Ci fermiamo qui, io voglio ringraziare tutti, dell'avvocato Pacia, il professor Grevi, il professor Cancrini, l'onorevole Rosso e Riccardo Arena. Voglio ricordare, per chi ha voglia, alle 21 facciamo pubblicità Radio Radicale, insomma, Radio Carcere, e domani sul Riformista. Grazie davvero, noi domani siamo regolarmente in diretta, vigilia di Natale. Ringrazio Elisabetta Fusconi e Alessandro Marcotulli in redazione, Giorgio Matte in regia, e allora a domattina.